Ciao a tutte e tutti, siete all'ascolto di Radio Wombat, comincia adesso come ogni venerdì alle 21:30 URU, questa è la 38esima puntata. Prima di cominciarla vi ricordiamo i social dove potete trovarci, wombat.noblogs.org è il sito per ascoltare in streaming questa puntata e anche tutte le passate attraverso i podcast. Se, abbiamo anche Twitter, twitter.com/radiowombatfi, per parlare con noi, postawombat@insiberia.net. Pensiamo che stasera ci sia un po' meno ascoltatori perché in città c'è uno dei grandi della musica africana, Tony Allen, e quindi ascoltate almeno il podcast. Appunto, 38ª puntata dedicata alla chitarra, ai chitarristi africani. E quando si parla di chitarra, di chitarristi africani, in particolar modo si parla di sonorità blues. E anche perché è impossibile dire in quale misura il blues arrivi dall'Africa e se già vi allineasse prima della diaspora degli schiavi. In Ali Farka Touré, per esempio, risentiamo John Liuke, ma la prima volta Ali Farka Touré ascoltò John Liuke, era convinto assolutamente che fosse un maliano, fosse un suo connazionale. E quindi chitarra afro blues e in particolar modo, anche se non esclusivamente, la chitarra è suonata come strumento, diciamo, principale, specialmente in Mali. In Mali di cui faremo ascoltare alcuni autori, alcuni pezzi, e che in generale ha prodotto canzoni, suoni, in particolare Ali e Viou Falka Touré, Boubacar Rokia Traoré, Djelimadi Tounkara, Afel Bokoum, Habib Koité, e non solo in Mali. La chitarra e il modo di suonarla anche in maniera diversa sono comunque diffusi in tutta l'Africa, anche se a parte il Mali ci sono altri 4-5 paesi in cui è particolarmente conosciuta, particolarmente apprezzata, particolarmente suonata. E quindi anche il Congo, che c'ha Franco, un predecessore, un succedaneo tra Rumba e Sukus, e oltre a Franco, Henry Bouane, Dottor Nico, Remy Ongala, Diplo Dybala. E di Franco appunto ci sentiremo un pezzo, ma non solo Mali e Congo, ma anche Nigeria, appunto, di cui Tony Allen appunto è un percussionista, ma chitarristi, la Nigeria annovera Kingsani Ade, Ebenezer Obey, Prince Nico Barka, così come il Senegal, Ismael Lo, la Sierra Leone, Suleiman Rogi, l'Uganda, lo Zimbabwe, Koliver Mtuuzi e Capo Verde, un Teofilo Tchantre, ma anche in particolar modo anche in Sudafrica, in particolar modo con i chitarristi jazz. E due avvertenze, ecco, la prima per quanto riguarda la musica, la chitarra africana, la prima è che a parte il concetto di virtuosismo è molto europeo e che parecchi dei più dotati fra i chitarristi africani hanno agito storicamente in prevalenza, se non quasi esclusivamente, all'interno di gruppi e quindi non come chitarra, come singolo, insomma. E quindi l'orchestra Baobab, la Bembeya Jazz Band, la Lokassa Yambongo, la Sukus Star e via dicendo. E tra l'altro ci ripromettiamo di fare una delle prossime puntate proprio dedicate all'orchestra, proprio perché appunto queste orchestre si formavano all'interno, in particolar modo, di club, di hotel, di stazioni come la Super Rail Band e a cui vi facevano parte molti strumentisti, in particolare chitarristi. E il primo di cui facciamo ascoltare è Djelimada Tounkara. Sì, Djelimada Tounkara è un musicista maliano, come abbiamo detto, è nato nella città di Kita, una città a ovest della capitale del Mali, Bamako, una città particolarmente ricca dal punto di vista culturale. È cresciuto circondato dalla musica tradizionale suonata dai membri della sua famiglia, in quanto griot. quindi musicisti e storici per nascita. Geli Madi suonava djembe e ngoni, un liuto simile al banjo da ragazzo. Quando si è trasferito nella capitale del Mali, Bamako, durante gli anni 60, aveva in realtà pensato di lavorare come sarto, ma la musica poi si è dimostrata più forte di questa idea. Ha iniziato quindi a suonare la chitarra in una delle grandi band di quartiere, l'Orchestre Misirà. Votato come miglior chitarrista della band, è stato selezionato per un'altra orchestra, una delle più grandi del Mali, e avendo così un grande onore perché era giovane a quel tempo. Tutta la sua vita Geli Madi ha lavorato per trasformare le sue tradizioni ancestrali in dance pop, ma allo stesso tempo ha continuato a lavorare in contesti più tradizionali, sostenendo i grandi cantanti griot del Mali nei concerti, nelle celebrazioni del giorno del matrimonio e del battesimo, che sono il sangue della vita del moderno griot. Negli ultimi anni si è esibito in un trio acustico chiamato Bajuru, accompagnato da un altro chitarrista griot, Buba Sako, e dalla cantante Lafia Diabaté, una veterana della Rail Band. Allora, di lui ci ascoltiamo Fanta Baruma. Alubini misa furule musulame. avevamo parlato in una delle recenti puntate della volontà di Israele di deportare i migranti che loro chiamano infiltrati verso i paesi africani, in particolare verso l'Uganda e il Ruanda. Tutto ciò in cambio diciamo di soldi, ecco, in cambio di soldi e dietro al quale si sospetta anche un discreto traffico di armi. Era una possibilità, adesso purtroppo sembra che diventi una realtà, e quindi Israele deporterà 40.000 migranti che, ripeto, loro chiamano infiltrati in Ruanda e Uganda. Entro poche settimane questi due paesi inizieranno ad accogliere gli immigrati africani deportati da Israele. E da tempo, infatti, questi due paesi hanno iniziato a ricevere piccoli gruppi di eritrei, sudanesi, etiopi, ma a breve, appunto, ne arriveranno circa 40.000. Ad annunciarlo durante l'udienza di una casa intentata dall'Organizzazione per i diritti umani, e cercano di bloccare la deportazione dei rifugiati, perché si sta trattando di rifugiati, è stato il procuratore Shosh Shmueli, che ha dichiarato all'Alta Corte di Giustizia Tel Aviv che il governo israeliano intende iniziare a deportare i richiedenti asilo attuando gli accordi firmati con i due paesi, cioè con il Ruanda e l'Uganda. Quando il Presidente della Corte Suprema ha chiesto del programma per le deportazioni, il Pubblico Ministero ha risposto molto presto, e quando è stato ulteriormente incalzato rispetto al tempo necessario, al tempo entro il quale verrà iniziata questa deportazione, è stata settimane. E i gruppi per i diritti umani stanno cercando di costringere Israele a fermare la deportazione e cancellare una legge che impone ai richiedenti asilo di depositare il 20% dei loro guadagni in un conto al quale potranno accedere solo dopo aver lasciato Israele. Kigali e Kampala, cioè le due capitali, rispettivamente Ruanda e dell'Uganda, hanno ammesso di lavorare con Israele sulla questione dei rifugiati africani, ma non hanno, diciamo, non hanno detto chiaramente come stanno le cose. Secondo alcune indiscrezioni, il Ruanda avrebbe accettato di accogliere anche immigrati deportati contro la loro volontà. E alla base di tutto ci sarebbero, come detto precedentemente, detto alcune settimane fa, oltre agli accordi di cooperazione, in minima parte, e che sostanzialmente servirebbero a coprire, diciamo, cooperazione militare tra questi tre paesi. Il ministro degli esteri del Ruanda ha rifiutato di commentare la questione, e Israele sostiene che l'accordo è stato firmato per il bene dei rifugiati. Chiaramente, l'Agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato che Kigali non ha risposto alle richieste di informazioni riguardanti l'accordo, anche se si ritiene che siano già migliaia i migranti deportati in Ruanda. E niente, un paese composto, diciamo, da migranti, che a sua volta non li accoglie, li chiama infiltrati. Teniamo presente che, appunto, sono tutti richiedenti asilo, vengono deportati in Africa, e dietro a tutto ciò c'è uno scambio, una cooperazione militare. Sostanzialmente Kigali accetta, Kigali e Kampala accettano di prendere i migranti. Nello stesso momento Israele vende le armi a questi due paesi. Il prossimo pezzo che andiamo a ascoltare è il frutto della collaborazione di due musicisti maliani, uno Alifar Katuré, famoso cantante, chitarrista, vissuto a Gnafunché, di cui è stato anche sindaco, insieme a lui a Toumani Diabaté, che invece è uno dei più famosi suonatori di kora. Anche lui, appunto, maliano, ha fatto un festival acustico a Bamako di 3 giorni, invitando artisti stranieri per suonare insieme a musicisti maliani per la giustizia. Di loro ci ascoltiamo Monsieur Maire de Nafunké. Thank you. I pigmei, da sempre considerati signori delle foreste africane, rischiano di scomparire. La deforestazione sta distruggendo il loro habitat e minaccia di cancellare il loro prezioso patrimonio culturale. L'arrivo delle strade ha provocato gravi epidemie, malattie strane alla foresta, facendo morire intere famiglie. Il Camerun, per pagare il debito estero, ha dovuto svendere milioni di ettari di vegetazione lussureggiante. Nel paese operano una ventina di grandi società europee. Dopo la conferenza di Rio, che in teoria, in linea di principio, diciamo, doveva servire per difendere la natura del nostro pianeta, il ritmo del diboscamento si è intensificato e la situazione è precipitata. Di questo passo non rimarrà neanche una macchia verde. A rimetterci di più, appunto, sono i pigmei. Il piccolo popolo della foresta, perché le donne sono alte in media a 135 centimetri e gli uomini tra i 140 e i 150, non si sa esattamente quanti siano, sono stimati tra i 20 e i 40 mila persone, in un paese con 12 milioni di abitanti. Un tempo erano i signori incontrastati di queste terre, si erano adattati alle difficili condizioni naturali, senza sconvolgere l'ambiente né piegarlo alle proprie necessità. Tradizionalmente nomadi, si spostavano nel cuore della boscaglia vivendo di caccia e di raccolta. Oggi non possono più farlo e possono solo assistere alla distruzione del mondo, del loro mondo. I bulldozer delle nazionali del legno si presentano senza preavviso davanti agli accampamenti, fanno sloggiare le comunità e cominciano a abbattere tutto quello che possono. I Baka, i pigmei, non possono opporsi, non ne hanno diritto. Prendono un po' di quello che possiedono e cercano altri posti dove accamparsi. Di fronte alla drastica diminuzione della terra e della selvaggina disponibile, che minaccia di sconvolgere la loro secolare organizzazione sociale, la politica del governo è inadeguata. Le comunità vengono indotte a stabilirsi in pianta stabile e invitate alla coltivazione dei campi, ma i pigmei non hanno una mentalità contadina e quindi finiscono per trovarsi relegati ai margini della vita sociale. E sabato 16, cioè domani, al CSA Ernest Emerson, via Ribellage 15, birthday dance, birthday nel senso che è il compleanno, il primo compleanno per Radio Wombat, anche se in ritardo di un mese, comunque viene... Lo festeggeremo domani insieme a tutti quelli che vogliono, che ci verranno. È il quinto compleanno di Miruz Sound System, che appunto farà parte, sarà uno dei gruppi, anche gruppo organizzatore, ma anche uno dei gruppi che suonerà, che animerà la serata, insieme a Miruz Sound System, Davas Sound System e Disco Rebel, ma soprattutto Rankin Fox. Un cenno particolare a Rankin Fox perché appunto Rankin Fox è un DJ reggae, ma soprattutto, pur vivendo attualmente a Belfast, il paese, la città da cui proverrà anche domani, è nato in Zimbabwe e al di là della sua scaletta musicale, molto spesso Rankin Fox propone e comunque si sente anche nella propria scaletta musicale i suoni e la musica dal continente africano, in questo caso dallo Zimbabwe. E quindi domani 16 dalle 22 a CS Ernest Emerson, via di Bellacero, festa di compleanno e quindi benefit anche per Radio Wombat e il Miruz Sound System. E passiamo da Kante Manfila, un chitarrista guineiano, e come a sottolineare quello che abbiamo detto precedentemente, cioè che la stragrande maggioranza dei chitarristi ha comunque fatto parte, si è imposta, diciamo, si è evoluta all'interno delle grandi band, delle band musicali. Anche Manfila ha fatto parte di diverse band, di diverse orchestre, come vengono chiamate in quella parte dell'Africa. Ha suonato con la Independence Jazz Band, con la Ritmo della Bia, con soprattutto è stato il leader dell'Els Ambassador, una delle band maliane più popolari negli anni 70 e dei primi 80. Band maliane perché appunto Kanteman Fila, pur essendo nato in Guinea, si è successivamente trasferito in Mali e poi successivamente è ritornato in Guinea. E all'interno di questa band ha iniziato questa collaborazione artistica con il cantante del gruppo, cioè Salif Keita, di cui abbiamo avuto modo di ascoltare in diverse puntate precedenti di Uru, la sua voce e alcuni dei suoi brani. E dopo aver iniziato suonando il balafon, cioè questo grande silofono di legno, che è uno degli strumenti più tradizionali di quella zona dell'Africa, della zona, diciamo, Mali, Guinea, Burkina, via dicendo, ha iniziato a suonare la chitarra ed è stato uno dei primi all'interno, diciamo, del mondo africano, diciamo, all'interno della scena dei chitarristi africani a applicare delle diverse altre progressioni musicali, innestando appunto sulla tradizione mandè, che è quella dell'etnia, del popolo, della regione da cui proviene. E oltre a aver suonato la chitarra in queste band, poi ha proseguito una propria carriera solista. C'è da far notare che ha pubblicato il suo primo 45 giri, il suo primo vinile a 45 giri già nel 1966. E appunto vi facciamo ascoltare di Kanteman Fila un pezzo strumentale, Relation at Moribaya. Thank you. dopo questo pezzo di Canté Manfilà, vi ripetiamo i social, il sito wombat.noblogs.org, da dove potete ascoltare lo streaming della radio 24 ore su 24, oppure potete andare nel menu podcast, il primo a sinistra, e cercare nel nostro caso Uru e trovare tutti i podcast delle puntate precedenti, ma anche naturalmente di tutte le altre trasmissioni della radio. Il profilo Twitter della radio è twitter.com/radiowombatfi, e vi ricordiamo che anche Uru ha un proprio profilo Twitter che è uru-rw di Radio Wombat. Se vi interessa l'Africa, se vi piace sapere qualcosa in più oltre alla musica, seguiteci e via via mettiamo notizie che ci sembra interessante dare. L'email è postawombat@insiberia.net. Vi ricordiamo che le repliche di questa trasmissione di Uru, che va in diretta il venerdì alle 21:30, vanno alle 10 della domenica mattina e alle 15 del lunedì pomeriggio. Ne abbiamo già parlato abbastanza diffusamente di questo gruppo Itinerary UN, di cui vi faremo ascoltare il prossimo pezzo, ma ne vale la pena di un po', diciamo, a grandi linee di riparlare, perché Ibrahim Haghaghalabib, che è il leader, diciamo, della band, comunque quello che l'ha fondata, l'ha formata, è Tuareg, come appunto gli altri membri della band, è quindi un popolo, come tutti i Tuareg, di origine berbera, e la cui particolarità è che nel 1963, quando i Tuareg si sono ribellati, diciamo, al governo centrale, il padre di Ibrahim, pur non combattendo, nasconde i ribelli dell'esercito, e il giorno in cui viene scoperto, diciamo, appunto dalle ceste, viene giustiziato di fronte al figlio, e insieme a lui fanno a pezzi pure il bestiame, che è la cosa più importante, la fonte di vita, diciamo, per questi popoli, per il popolo Tuareg in particolare. Ibrahim in quel periodo aveva 4 anni, e insieme alla nonna e all'unica mucca risparmiata all'eccidio inizia la sua traversata del deserto, la sua vita da sopravvissuto, iniziando così il suo passaggio, diciamo, da un campo profughi all'altro, dall'Algeria alla Libia, e in uno di questi campi profughi vede un suonatore di chitarra che subito gli piace, ma appunto, se uno è bambino Tuareg, che è per di più un rifugiato, riuscire a procurarsi una chitarra non è che sia una cosa più semplice, e così se la costruisce usando barattoli di latta, bastoni e fili di freno della sua bicicletta, e comincia così a suonare quella che poi verrà successivamente conosciuta molto diffusamente, diciamo, non solo all'interno dell'area Tuareg, dell'area in cui viene parlata la lingua Tamashè, che è appunto la lingua dei Tuareg, ma anche in Europa. E nel 79, nell'oasi algerina Tamanrasset, che è uno dei posti in cui uno dei posti principali, diciamo, in cui vivono i Tuareg in esilio, incontra altri due coetanei, Santo Hami e Intedien Abablemin, e con loro fonda questa band, questi Timari Tinariwen, e cantano in Tamashè, che è la lingua dei Tuareg, e appunto Tinariwen significa, è una storpiatura, diciamo, uno slang che viene una parola in slang che sta a significare anche Tishumaren, che significa più o meno disoccupato, ed è quello in cui sostanzialmente si identificano in quel periodo, ma anche tuttora, i giovani Tuareg sradicati dalla loro terra a causa dei conflitti e della mancanza di opportunità di lavoro. E la lingua Tamashè è uno degli idiomi più belli musicali del mondo, con una serie di traslitterazioni che sembrano proprio già di per sé parlandola sembra sia cantata. E quindi per loro, sotto certi aspetti, è più facile cantare magari rispetto ad altre, loro parlano quella lingua rispetto ad altre lingue, e nello stesso momento, oltre a cantare, si evolvono sempre di più il loro stile musicale, e in particolare quello, diciamo, basato su il suono della chitarra. Vi facciamo ascoltare un pezzo di Tina Dee Gwen, in questo caso è Imita Weren. تنتقل دار عالم من موسى Di deserto, a proposito di tende, a proposito di popoli che avendo i Tuareg che combattuto e stanno tuttora combattendo lo Stato centrale, un altro popolo sempre lì vicino, anche se diciamo verso l'Atlantico, diciamo in cui, il territorio su cui dovrebbe essere è sull'Atlantico. Anche questo popolo, diciamo, è oppresso, i rappresentanti, gli abitanti, diciamo, di questo popolo vanno da un campo profughi all'altro e nello stesso momento stanno portando avanti una lotta, una battaglia per, di liberazione nazionale sostanzialmente. Se parliamo parlando del popolo Sahrawi, che se non altro condivide il popolo Tuareg una particolarità, cioè la grande importanza della donna all'interno della società, sia Tuareg appunto sia Sahrawi. E vi diciamo questo perché la prossima puntata di Senza Frontiere, che è una delle rubriche di Dario Wombat, va in onda dal lunedì al venerdì, il lunedì alle 13, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 13 e il giovedì e il martedì e il giovedì alle 14, parlerà appunto del popolo Sahrawi. Non è un'intervista, non è un intervento singolo, sono estratti, tracce, diciamo, da un'assemblea, da un'assemblea pubblica che si è tenuta qui nelle vicinanze di Firenze, a cui hanno partecipato una rappresentante del popolo Sahrawi e rappresentanti delle associazioni, organizzazioni dal basso, diciamo, che si battono, che comunque stanno portando avanti progetti di solidarietà col popolo Sahrawi. Allora, il prossimo pezzo parliamo di Shirani, che è nato nel 1953 nella provincia del KwaZulu Natal, quindi stiamo parlando del Sudafrica. È nato da due membri della tribù Zulu e il loro stile musicale avrebbe in seguito influenzato molto le sue opere. Quando aveva 13 anni, Shirani venne affascinato dalla musica maskanda, cioè lo stile musicale conosciuto come il blues degli Zulu, dopo che suo fratello gli fece conoscere un pezzo tradizionale di questa musica. Nel 1989 vince un concorso di chitarra maskandi presso l'Università del KwaZulu Natal, dove insegnerà chitarra, appunto, maskandi per il resto della sua vita. Era noto per aver usato nelle sue canzoni per dare un quadro della vita di un lavoratore migrante Zulu, come in realtà era stato lui per gran parte della sua vita, e quindi ha usato i testi delle sue canzoni per esaminare i temi delle famiglie distrutte e della perdita in una cultura in costante cambiamento come quella sudafricana. Musicalmente mescola la batteria propria della danza ngoma con la chitarra maskanda più tradizionale. A differenza di molti suoi compatrioti, ha resistito all'uso di sintetizzatori elettronici, utilizzando invece uno stile più minimalista e tradizionale, con una chitarra acustica e un basso. Di lui sentiamo Gli Canini. non anche nella mandare. Auega ne la malta mendomba sane aungalela mandla. Kwathi shumla mnyaka ntombi ukutshana into yodwa kodwa ufuni khalela mandla. Waphela izimali gibela izimoto ngishela wena khalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Beganela mandla mi ntombi khalela mandla mi. Kwaphela izimali ntombi ngikhibela makhumbi ngizoshela wena hhayi amandla mi mngano ntombi. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Shia en khalela mandla. Sando mando mando mengo chanda mando mazal tu masal kamu kamda senga kache. Uchi nu alo lapa. Uchi nu jangis. Bengu ba lok ningi beli ningi la wasebi angas. Nenu shal wagan go boy. Aw ye gane. Kalela mandla, kalela mandla. Kwaphela izimali ntombi ngikhibela makhumbi ngishela wena kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Shia en kalela mandla. Abbiamo già parlato in una puntata precedente del Delta dell'Otavango, uno dei patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO, uno dei patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO in Africa. E parliamo ora di Stone Town, la città principale, la capitale, tra virgolette, di Zanzibar. E per noi parlare dei patrimoni dell'umanità targati UNESCO non significa tanto parlare di quello che l'UNESCO sta facendo, anzi, di questo ce n'è un po'. Ce ne importa anche poco se non pochissimo, ma dare risalto è un modo sostanzialmente per far capire, spiegare, far conoscere questi patrimoni che sono dell'umanità, ma che sono soprattutto patrimoni culturali, architettonici, storici dell'Africa e che oltre ad essere importanti da un punto di vista come dire, della bellezza artistica, della bellezza naturale, fanno parte della cultura e quindi delle radici dell'Africa, e di cui puntualmente, da quando è iniziata la colonizzazione, diciamo da metà, dall'inizio dell'Ottocento, la colonizzazione vera e propria, diciamo, quella non soltanto diciamo commerciale o quella susseguente alla tratta degli schiavi, ma anche quella soprattutto culturale. E quindi è sostanzialmente un modo per far riappropriare, per far capire quelle che sono le radici, come ho detto precedentemente, della cultura dell'Africa. E Stone Town appunto è la capitale, tra virgolette, Zanzibar, è caratterizzata da un labirinto di vicoli ricchi di case, negozi, bazar e moschee, e l'architettura è una miscela di stili uni a nessun genere, include elementi moreschi, arabi, persiani, indiani ed europei. Ricordiamo tra l'altro che Zanzibar è sulla costa dell'Oceano Indiano, e quindi appunto è stata influenzata da immigrazioni continue che si sono susseguite lungo questo percorso, diciamo dall'India, dall'Asia all'Africa e viceversa. E oltre all'impiego diffuso della pietra corallina locale, ricordiamo che davanti a Zanzibar si estende una delle più grandi barriere coralline, se non la seconda barriera corallina del mondo dopo quella australiana, dicevamo, oltre all'impiego diffuso della pietra corallina locale come materiale da costruzione, si deve il nome Stone Town proprio perché è una città di pietra, e questa pietra conferisce alla città un colore particolare. E l'origine appunto della multietnicità e della multiculturalità caratteristica di Stone Town si fa risalire al periodo Shirazi, all'inizio all'inizio proprio del secondo millennio, quando gli arabi persiani iniziarono ad arrivare in Africa, mischiandosi alle popolazioni locali bantu e fondando città costiere che possono successivamente sono diventate città stato come Kilwa ed altre. Sono 12 le città stato sorgono, che sono tuttora e di cui vive, e di cui alcune purtroppo sono rimaste sulle rovine. Zanzibar è una, Kilwa un'altra, Mogadiscio un'altra ancora, Lamu un'altra ancora. Sono 12 che vanno dal nord del Kenya fino al sud del Mozambico. E sebbene questa città sia sorta in un'epoca tarda, la sua architettura, la sua cultura sono appunto il riflesso, una fusione di influenze arabe, persiane, asiatiche, bantù, e il tutto miscelato dalla cultura swahili. La città vera e propria risale all'inizio del 1830, quando vennero costruite le prime case in pietra, e all'epoca l'arcipelago di Zanzibar apparteneva al sultanato dell'Oman. A partire da questo periodo la città inizia a svilupparsi, e nel 1840 addirittura Zanzibar diventa Stone Town, diventa la capitale dell'Oman. E nel 1861, in seguito a una lotta di successione, Zanzibar si separa dall'Oman e diventa un sultanato indipendente, quindi una nazione a sé, e diventa anche un punto cruciale della via delle spezie che univa l'Europa, l'Africa e l'Asia, e purtroppo anche acquista lungo questa tratta delle spezie, diventa anche la tratta degli schiavi, un ruolo fondamentale nel commercio degli schiavi che dall'interno del continente poi venivano inviati in Medio Oriente. Nonostante ciò, oppure proprio perciò, Zanzibar mantiene la sua natura multietnica, e quindi con i britannici, le popolazioni native, gli omaniti e via dicendo. E tra l'altro, venendo ai giorni nostri, nel 1864 Stone Town fu il principale teatro, diciamo, degli eventi che hanno caratterizzato la rivoluzione che ha portato alla destituzione del sultanato e all'inaugurazione di un governo socialista dell'Afro Shirazi Party. E quindi ecco, c'è questa particolarità, perché effettivamente questo partito, diciamo, questa organizzazione, questo Afro Shirazi Party, diciamo, era nato, stiamo parlando del 1964, e quindi era nato precedentemente, cioè alla fine degli anni 50, aveva un'identità propria, cioè non era un partito diciamo, gemellato, oppure un partito che era nato o era finanziato da altri partiti di sinistra, diciamo, dell'area, o comunque collegati a Mosca, via scendo. Era proprio nato rispetto a quelle che erano le esigenze, la cultura, la socialità della popolazione locale. Successivamente Zanzibar si è unito al Tanganyika, appunto, e quindi quest'unione ha formato quello del nuovo, l'attuale stato, l'odierna Tanzania. E Zanzibar ha mantenuto il ruolo di capitale, diciamo, della regione di Zanzibar, ed è la sede del governo. È una città bellissima che si trova su una parte, su una costa dell'isola, mentre invece tutto il resto dell'isola è quasi come costa, diciamo, costellato da baia, da insenature, da acqua cristallina, e l'interno è ancora all'80% dedicato, il terreno all'interno è dedicato alla coltivazione delle spezie, in particolare del garofano. Del chiodo di garofano. Sì, adesso ascoltiamo Siran Mbenza, che è nato a Kinshasa, quindi nella Repubblica Democratica del Congo, a maggio del 1950. La sua carriera artistica è iniziata nel 1968, quando ancora studente ha suonato in un gruppo di quartiere che si chiamava La Banita. In seguito si unì ad altri gruppi, tra cui l'Ovidu Zaire, che vi ricordiamo era il nome della Repubblica Democratica del Congo all'epoca, e guidati da Vicky Longomba. Dopo aver lasciato questo gruppo, decise di diventare un musicista professionista e si unì a un altro gruppo chiamato Kara, che suonava in un locale notturno con lo stesso nome, come appunto abbiamo detto succede spesso in Africa. Spirito avventuroso, Siran decise di esplorare altre aree musicali. Quindi è andato in Togo, Costa d'Avorio, ha girato un po' tutta l'Africa occidentale, dove incontrò altri due musicisti e con loro si unì all'African All Stars e registrò con loro anche il primo album da solista. Apprezzato chitarrista in Africa e in Europa, ha collaborato con numerosi artisti. Di lui ascoltiamo Tour à Tour. Moninga, Bambola kamalembe malembe na mokili Yonga katoli bako pesa yongo ninga langai Oh papa Bongo ninga lelo na komiki zodi sansapa Oyo salingai Lobi pe bako sala yona moto Mokando yukine lingai yebuki ngai mikuwa Mamana lo cola su chiamoto Sammo yeni cambona tu ni sulla ya molangai Gayanda na na boina kufali wayangungi Oingo papa bonio salinga boye Oyo salinga lelo lo biba tu sala yona moto mosusu Mokili tura ture Mokili tura vise qui questa puntata vi ricordiamo che potete riascoltare il podcast o le repliche la domenica mattina alle 10 e il lunedì alle 15 ci rivediamo ci risentiamo venerdì prossimo alle 20 alle 21:30 e anche se non lo facciamo mai vi do una piccola anteprima la settimana prossima ascolteremo uno dei grandi stili musicali dell'Africa subsahariana, i gospel, quindi ci sentiamo venerdì alle 21:30. Ciao a tutte e tutti.